Grazie, questa precisazione penso fosse importante. E volevo salutare e dare il benvenuto a Zili, che è Leandro Agro, il fondatore di Idearium, a cui diamo benvenuto su Vulcano. E, tra l'altro, molti di voi sanno che ci sono delle discussioni in corso, dei colloqui, che potrebbero vedere l'avvicinarsi anche fisico delle isole di Idearium, Vulcano e altre. E quindi mi fa piacere avere anche Leandro Tanoi, che è stato anche presente da alcune delle riunioni che abbiamo tenuto nel mondo fisico, nel gruppo di studio della singolarità. Ecco, io come dicevo prima, mi fa piacere concludere con qualche annuncio a sorpresa queste nostre riunioni, come alcuni di voi sono già abituati, mi fa molto piacere essere riuscito a fare in tempo a portare quella di stasera, perché è proprio giusto è il momento giusto. Dopo diversi mesi di lavoro e fra virgolette negoziazioni, abbiamo ricevuto pochi giorni fa la conferma del riconoscimento formale da parte della Singularity Institute americana, della Singularity Institute europea come organismo affiliato. E di conseguenza della Singularity Institute italiana, cioè del nostro gruppo, che quindi può a questo punto fare un passo avanti e formalizzarsi come anche associazione RL, e può con maggiore impeto prepararsi ad ampliare quelle che sono le ondate successive di divulgazione e di analisi di questi argomenti. Alcuni di voi sanno che nei prossimi mesi i concetti della singolarità sono destinati ad essere ulteriormente approfonditi, ampliati dai mass media tradizionali. Questo è dovuto ad un paio di cose: la traduzione anche in italiano del libro di Ray Kurzweil, The Singularity is Near, La singolarità è vicina, che uscirà in italiano a marzo, tra marzo ed aprile, e che speriamo abbia un buon successo di vendita perché è un ottimo libro. E il secondo invece sarà l'uscita nelle sale cinematografiche di un film intitolato The Singularity is Near, La singolarità è vicina, che è nelle fasi finali di preparazione e che è a metà documentario, a metà film di fantascienza. Non è probabile che raggiunga i successi di vendita che ha visto la trilogia di Matrix, ma sicuramente contribuirà a far sì che questi argomenti vengano conosciuti in modo ampio. Il nostro scopo quindi sarà anche quello di far sì che non ci sia, o ci sia il meno possibile, una interpretazione negativa di questi elementi. Un po' come i costruttori di cellulari non sono riusciti a spiegare gli utilizzi positivi dei loro strumenti, e oggi nelle scuole italiane è irrimediabilmente associata l'immagine del cellulare al bullismo, noi vogliamo evitare che per ignoranza, superficialità o malizia, i concetti importanti, pericolosi ma importanti, del progresso tecnologico estremo e della singolarità tecnologica vengano interpretati negativamente in modo aprioristico. E quindi il nostro lavoro nei prossimi mesi consisterà proprio nell'approfondire questo e di trovare le varie declinazioni del concetto che siano facilmente spiegabili, facilmente capibili da parte di tutti. Tra poco io vi dovrò lasciare perché ho un'altra riunione che parte di Lunares, anche questa è una cosa che molti di voi sanno e che sta andando avanti in modo molto interessante. Magari vi do un piccolo aggiornamento anche su quello. Domani parte una conferenza della NASA a cui partecipa Peter Worden, che è il direttore del NASA Ames Research Center, e a cui partecipano dei membri del team di Lunares, che descrive proprio come la NASA vorrà utilizzare i mondi online per le missioni spaziali e le esplorazioni interplanetarie. Quindi, in questo senso, la missione di Lunares è proprio cade a fagiolo e siamo molto contenti di essere presenti. Ci sono anche altre novità che nelle prossime settimane spero di potervi dire. Ah sì, abbiamo il primo membro pagante di Lunares anche. Vuoi farti vivo, membro pagante di Lunares?